prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. René, giornata semplice oggi. Solo 3 scene facili. Poi tanti auguri e tutti a casa. Mi sa che non ce la faccio. Non ce la fai? Mi sa di no. Va bene, non è un problema, allora mando tutti a casa. Però poi dobbiamo girare durante le feste, quindi recuperiamo. L'unico giorno buono per tutti è l'ultimo dell'anno. Annulliamo oggi e giriamo il 31. No, come il 31? Sì, per forza, guarda, dobbiamo chiudere tutte le scene del carcere perché poi ci smontano la scenografia e montano il wine bar di nonno Alberto. Quindi annulliamo oggi e giriamo il 31. Scusa un attimo. Userò gli occhi del cuore per capire i tuoi segreti, per capire cosa pensi nei tuoi primi piani intensi, nei tuoi piani americani, così intensi e così italiani. Fatti un po' a cazzo di cane. Userò gli occhi del cuore come fa un dottore cieco quando che opera i pazienti. Stanno tutti molto attenti. Ben ritrovati alla prima volta e, come avete sentito, abbiamo scelto di aprire questa puntata con un estratto della serie televisiva Boris, un estratto decisamente natalizio che abbiamo scelto proprio perché appunto volevamo augurarvi anche sorridendo un felice Natale. Dunque Boris, un piccolo capolavoro tutto italiano che diventa nel giro di poco tempo una serie di culto. Abbiamo scelto un estratto di questa serie televisiva perché l'ospite di oggi è Francesco Pannofino, un attore che, come sentirete, ha un innato tempo comico, un attore di grandissimo talento, ma soprattutto un formidabile doppiatore dalla voce bellissima che potrete vedere in scena fino al 15 gennaio al Teatro Brancaccio di Roma con lo spettacolo Se il tempo fosse un gambero. E allora partiamo proprio da qui, da questo spettacolo. È uno spettacolo che fu lanciato da Enrico Montesano negli anni 80 e fa parte della tradizione della commedia musicale italiana, quella di Carinei Tovannini. Il testo è scritto da Iaia Fiastri e Bernardino Zapponi, e la regia la fa Saverio Marconi, che è un grande maestro di questo genere. Io, per quanto mi riguarda me, diciamo che non è proprio la mia specialità, però insomma mi sto mettendo anche un po' in gioco e la cosa mi fa piacere, anche perché così è la prima volta, diciamo, tranne le esperienze minime, giovanili. Poi è la prima volta che faccio un musical o commedia musicale, insomma. E ti diverti? Si parla e si recita. Ti diverti o fai fatica? No, per ora faccio una fatica enorme, però penso che mi potrò divertire tra un po'. Senti, io volevo chiederti questa cosa. Credo che tu lo sappia, di essere molto amato dai ragazzi, sei entrato proprio tantissimo nelle simpatie di tutta una generazione molto giovane, trentenni, ventenni. Sì, insomma, mi fa molto piacere. E perché, secondo te? Ma io credo che Boris abbia... Giusto. Insomma, abbia inciso parecchio, perché poi quella roba lì che... è stata fatta veramente con tutte le energie possibili, era scritta talmente bene che è entrata anche nell'immaginario collettivo, pur essendo ancora una nicchia, insomma non è una cosa popolarissima, però come vedi tra i giovani, diciamo dai 20 ai 30 anni, è una cosa che gira molto perché se ne parla tanto, e poi pensa che sono già anni che abbiamo finito di girare la serie e il film. No, però è una cosa che tutti praticamente mi chiedono e mi rifanno battute legate a Boris. Viva Boris! E beh, volevo anche dire che secondo me Boris è un po' la fotografia di tutto il paese, non solo del settore, diciamo, sì, del brava, televisivo. È una splendida metafora del nostro paese, come mi ha detto Salvatore Settis, che non è neanche l'ultimo arrivato. No, quindi sono contento. Quindi però sai, la vita va avanti, adesso poi ognuno di noi di Boris fa altre cose, vedo che lavorano tutti allegramente, non ci vediamo mai, ma siamo sempre legati affettivamente a quella esperienza lì. Senti, tu ci racconti un po' come nasci, nel senso come attore, qual è il tuo percorso? In realtà lo sappiamo, però giusto per sapere da te quali sono state le tappe fondamentali. Guarda, io da ragazzo pensavo di fare un lavoro che fosse diverso da quello che mi si prospettava, di impiegato, comunque aveva a che fare con l'economia, la finanza, la ragioneria, eccetera. E quindi sognavo anche di fare il giornalista, veramente. Solo che ero un po' timido, allora invece il giornalista deve essere sfacciato. Anche l'attore può essere timido, che poi la timidezza la superi col teatro, il teatro che è stato terapeutico. Io quando avevo 18-19 anni pensavo anche, incrociato dai miei amici di scuola con cui di università, davanti ai quali mi esibivo facendo imitazioni anche maldestre, ma di gran lunga superiori a quelle che facevano gli altri della mia cerchia, e quindi ero quello che aveva più doti dal punto di vista interpretativo. Allora mi hanno incoraggiato, poi mi sono trovato, poi la fortuna, no? Volevo smettere di studiare e lavorare, andai a fare il segretario al sindacato degli attori, che allora si chiamava Società Attori Italiani, per sostituire una segretaria che doveva partorire. Poi invece la segretaria non è più tornata perché è stata col figlio. Io sono stato un anno e mezzo lì e quindi ho conosciuto gli attori, sì, erano in agitazione per il voce volto, perché gli attori italiani non si doppiassero, insomma ho vissuto tutta quella stagione lì e piano piano poi ho conosciuto le cose, ho imparato a fare l'assistente di doppiaggio e poi ho imparato a doppiare, facevo anche il teatro per le scuole, così, compagnie minori naturalmente, e poi piano piano poi sono scritturato allo Stabile di Trieste nell'82 e da lì è partita tutta l'avventura. Cioè praticamente tu hai fatto proprio quella gavetta che si faceva un tempo, cioè partendo proprio da quasi a lato, scuole, a fianco. Scuole, anche se io la consiglio la scuola di teatro, però io non l'ho fatta. La mia scuola è stata il palcoscenico, ho cominciato, piccoli ruoli, cose, eccetera. Mi ha fatto una banale gavetta. No, beh, la gavetta è sempre importante perché poi si porta dietro anche tutto un modo appunto di risolversi le cose. Sì, perché sono cose che impari e poi te le ritrovi quando servono. E poi questo è un mestiere, no? Che più vai avanti, più impari, più c'è esperienza. E adesso come adesso, con tutto quello che hai vissuto, eccetera, torneresti indietro e rifaresti lo stesso percorso? Cioè, ti piace il lavoro che fai, il mestiere che fai? No, istintivamente ti direi di sì. Anche se alcune volte, però, sai, noi umani abbiamo purtroppo anche delle debolezze, delle cose, magari dico ma chi mi ha fatto fare? Invece no, sono molto contento perché ho realizzato quello che sognavo di fare da bambino, da ragazzo, cioè poi la vita, poi naturalmente la realtà è molto diversa da quella che te le immagini, però sono contento, insomma il bilancio è positivo, no? E sarei veramente ingiusto a lamentarmi. Ora ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo. Festeggiare, regalare, illuminare, cantare, gioire, incontrare, ritrovare, brindare, mangiare, abbracciare, baciare. Radio 24, libera la voglia di Natale. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Fotografia! Dimmi, René! Ma che cazzo vuoi tu, Duccio? Oh, Duccio, senti. Ti ho dato problemi, ragazzi. No, volevo questo carrello lungo ad andare e a tornare. Vorrei che mi facessi una... Diglielo a lui che poi glielo spiego io come si fa la... Senti, non mi pia per culo, Duccio. Io voglio te. Basta con la fotografia da fighetto del sto stronzo. Capito? Io voglio la roba tua. La roba tua, un tanto al chilo, hai capito? La roba tua di una volta. Voglio che apri tutto. Voglio che smarmelli. Ti voglio bene, René. Anch'io. Stiamo uniti. Uniti. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Ben ritrovati dunque alla prima volta, ancora un tributo come avete sentito alla formidabile serie televisiva Boris, perché l'ospite di questa sera è Francesco Pannofino, per molti René Ferretti di Boris appunto. Pannofino è anche un grandissimo attore e la sua voce bellissima gli ha permesso di doppiare attori del calibro di George Clooney, Denzel Washington, Kurt Russell, Antonio Banderas, Mickey Rourke, Tom Hanks, insomma i più grandi del cinema americano, e da qui appunto che inizia in qualche modo il suo lavoro di attore, anche se come sentirete nel corso di questa intervista la sua è una storia molto lunga, dalla gavetta veramente partita dal basso, quasi a lato rispetto alla professione dell'attore. Sentiamo. George Clooney e Denzel Washington, che sono quelli che ho fatto di più nella mia vita, ne ho seguito la carriera, no? Abbastanza importante loro, e devo dire che sono anche molto orgoglioso di averli fatti, sono due bravissimi grandi attori, qui anche involontariamente uno capisce anche il segreto magari di fare il cinema così, perché io sono abbastanza poliedrico, quindi faccio un po' tutto, cinema, teatro, televisione, doppiaggio, la musica, le cose. Adesso forse me devo fermare un pochetto, perché giro come una trottola. Ecco, poi quest'altra cosa bellissima, che tu che sei una persona che ha un tempo comico meraviglioso, cioè riesci a far ridere anche al telefono, cioè sei proprio uno che ha una grande capacità di entrare bene con, e questo da cosa nasce? Perché secondo me questa è un po' una cosa innata, cioè non... Sì, questo è il famoso talento innato che o ce l'hai o non ce l'hai, poi su quello naturalmente se ti impegni anche con la tecnica puoi anche costruire una buona carriera, però il talento iniziale, quello che dico io ai giovani, lo devi sapere tu se sei adatto, perché per fare questo lavoro bisogna esserci portati, se no è meglio che non lo fai, perché non, sì, si può imparare la tecnica, però se non hai talento rimani quel carciofo che purtroppo capita di vedere ogni tanto. E secondo te da dove nasce questa cosa? Dalla tua famiglia? Non so. Sì, credo mia madre. Mia madre è una donna molto... ha fatto tutt'altro nella vita, però la vedo, poteva farlo, ecco. Perché ti fa schiantare dal ridere lei? Sì, perché quando racconta le cose c'è un'energia soprattutto anche simpatica, fa ridere tutti, tutti la vogliono bene perché è simpatica, quando racconta i fatti, capito? Ma quindi la tua famiglia, diciamo, di origine, no, com'è? Pugliese. Pugliese. I miei genitori sono pugliesi, sì. E hai dei fratelli? Com'era ho la tua storia? Più piccolo, un fratello più giovane di 5 anni, cioè più di 50 anni, però è più giovane di 25 anni, che ha un ristorante, lui fa tutt'altro. Fantastico. Dico, com'erano le dinamiche interne? Guarda, io mi sono intanto guadagnato subito la libertà economica, andando a lavorare d'estate in cameriere, cose eccetera, quindi non dipendevo quasi più dai miei genitori, ho cominciato a lavorare abbastanza presto, quindi e quello è importante, poi dopo ho una tale carica e voglia di fare che nessuno mi avrebbe potuto fermare, i miei genitori per lì sono rimasti un po' così, invece mia madre soprattutto mi ha incoraggiato, anche mio padre, proprio padre fa quello che dice mia madre. E quindi alla fine sono due miei grandi fans. Mio padre poi è vecchiarello, ha 91 anni e lo saluto con tanto amore. Tu nel frattempo hai costruito una tua famiglia, cioè hai fatto tutto sì. Un tuo percorso anche... Non so. Beh, se... Io ho un figlio di 19 anni, Andrea, che mi piace da morire e sono contento per lui, per com'è. Quando pensi al tuo lavoro di attore così, pensi che in qualche modo incida, pesi, oppure sei riuscito a tenere da parte appunto? No, io mi ricordo quando lui era bambino che io andavo via per lavoro e a lui dispiaceva, però è normale, come tutti i bambini che vedono il papà che esce, che va a lavorare, piangono perché volevano giocare col papà, però voglio dire, non lo so, adesso bisognerebbe chiederlo a lui se il fatto che il padre e la madre facciano certo. Il suo lavoro sia una cosa, ma non mi sembra che lui abbia questo problema, per ora mi dice che non lo vuole fare, però secondo me poi cambierà idea, non lo so, da quello che ho capito. Perché a te piacerebbe che lo facesse? No, sì, piacerebbe, però non è che sono lì, sì. Che, cioè, che sono lì che gli sto attorno, cioè non è che ci tengo in modo particolare, ecco. Secondo me lui ci ha portato, poi anche se una vita faticosa, però dà un sacco di soddisfazioni. ma almeno provarci, però deve sceglierlo lui, deve deciderlo lui, se vuole fare altre cose ben venga, cioè no, faccio il tifo per lui, lo lascio anche libero di sbagliare. E senti, tu vivi sempre a Roma, cioè la tua Roma è la tua città, non la cambieresti mai con nessun'altra, cioè la senti molto questa... Beh, ma oramai, sai, sono tanti anni, sono arrivato a Roma che avevo 14 anni neanche compiuti e ormai non saprei dove andare a vivere, anche se poi a Roma ci sto e non ci sto perché sto sempre in giro, quindi... Però insomma sì, l'amo molto. E il cinema a Roma, diciamo, se, rispetto alla tua esperienza iniziale, com'è cambiato, quanto è cambiato? Diciamo che come tutti i settori la tecnologia ha un po' aumentato la velocità delle produzioni, le cose, capito? Si fa tutto molto di corsa. Ma questo io non ho vissuto mai il momento delle vacche grasse, almeno per quanto mi riguarda, ho sempre fatto tutto di corsa perché il tempo è denaro secondo i produttori ed è giusto, cioè capisco. Quindi credo che dal punto di vista invece della tecnica di lavoro, la tecnologia indubbiamente ha portato dei cambiamenti anche di tecnica di ripresa, cioè ci sono adesso tecnici specializzati con queste nuove macchine, poi ne escono una ogni due mesi, quindi ogni volta che giro un film c'è sempre una macchina da presa nuova, l'ultimo grido. Sì, è vero, vanno velocissime. La cosa che ti chiedo, poi ti lascio andare, è, di tutte le cose che hai fatto, qual è quella di cui in qualche modo, come dire, vai più orgoglioso? Ma io guarda, amo tutto quello che ho fatto, cose belle o cose brutte, perché è il mio lavoro, capito? E poi c'è un fattore di rischio anche abbastanza alto, non sai se la ciambella verrà col buco. Però diciamo che a Boris devo dire che René Ferretti è il personaggio che mi è entrato più a pennello e devo dire che è quello più... che ma non perché gli altri perdano, però è quello che amo di più dal punto di vista dell'incontro attore-personaggio, che è molto difficile che capiti. Cioè lo sentivi molto tuo, molto, era molto in linea con... Sì, sembrava scritto per me, ma io gli autori non li conoscevo, quindi... Ma ti hanno chiamato loro, sono stati loro? Sì, ho fatto il provino. Ah, quindi sei stato selezionato proprio nel momento in cui ti hanno visto, hanno capito che eri tu. Sì, hanno fermato tutto, hanno detto eccolo, l'abbiamo trovato. lo so, sono gli incontri fortunati tra attore e personaggio. Poi dopo io i personaggi li amo tutti quelli che faccio, poi mi piace anche cambiare. Però per esempio René è un personaggio che è anche pericoloso perché te lo puoi portare dentro anche in altre cose che non, dove non c'entra niente. E invece ruoli più drammatici o cose più impegnate? No, mi è piaciuto molto fare Nero Wolf su Rai 1. Sì. Ancora adesso me lo chiedono, insomma è stata veramente una grande esperienza quella, di interpretazione diversa, più misurata, più non da commedia, insomma, che è vero, molto bello anche quello. Sì. E poi insomma i vari doppiaggi che ho fatto, gli attori che abbiamo detto prima, Forrest Gump è una cosa che mi rende abbastanza orgoglioso. E poi insomma il teatro, tanti anni di teatro, cioè, speriamo che il tempo fosse un gambero, guarda come speriamo tutti. È la commedia del Natale, giusto? Il Brancaccio. Sì, il Brancaccio, Natale, Capodanno, sì. A questo punto ci fermiamo, a me non resta che augurarvi buon Natale e ovviamente ci ritroviamo l'anno prossimo. Ciao a tutti, felici feste da Cristina Carpinelli. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. Thank you.